dico, mi ci metto anch'io perché faccio parte della cerchia, però io non ho mai detto ad esempio parolacce per questo, ma buffonendite, ma ad esempio che io mi metto a dire parolacce entrando a casa tua o in casa degli altri, ma nella maniera più assoluta, perché ho sentito anche questi discorsi, ma io dice, non ci parlo perché ci sono troppi maleducati, troppe parolacce, non fanno altro che dire quattro parolacce e due parole sensate, oppure controlli di questo, controlli di quell'altro, ma cosa c'è da fare? Che senso ha stare lì a perdere tempo? E anche questo bisogna tenere in considerazione. Diciamo che l'abbiamo usata male la frequenza anche, dai. E prima già si faceva il servizio antincendio, giri di ricognizione, cose, però adesso non ci sono più le persone che possono farlo, è quello. Lo so, oggi non ci sono più persone, siamo rimasti con le pochissime persone che non, oggi non ci sono più portanti come c'erano una volta, prima anche quello faceva brodo per così dire, no? Era sempre nel calderone dei discorsi, anche quello del portantista, perché a quello magari non facevi altro che di quattro parole in croce perché metteva la portante, o addirittura c'è quello puntiglioso che ti metteva la portante, guarda che io sono più forte dei termini, e allora facevano le gare, tutte queste cose, ripeto, ci siamo divertiti per tantissimi anni, però bisogna anche riconoscere che la frequenza l'abbiamo usata male, malissimo anche, prima c'erano tante donne e le donne sono sparite tutte, chiediamoci per quale motivo le donne sono sparite, avanti, ce lo siamo mai chiesti, uno dei motivi principali è proprio per le parolacce che c'erano prima, tantissimo tempo fa, perché le donne si sa, queste cose non le vogliono sentire, come non le voglio sentire io che sono un uomo, per dire, come non le vuoi sentire tu magari che sei un uomo, eccetera, ma ci sono quelli che purtroppo hanno la bocca sporca e non ce l'hanno mai lavata dalle parolacce. Ecco qual è Gianni. Lo vedi, Gianni al telefono, capito, non ti risponde, invece sta al baracchino, al telefono. Gianni! E sono un po' stanco, non so perché stamattina mi sono stato alle 7:30 e ho continuato sempre a fare spese, questo e quello, a pulire la casa, sono come bufraco. Ah, governante, licenziato lei. Io la... già ti ho sentito che sei stanco, da quando sei entrato ti ho sentito con una voce stanca già, ma comunque quelle sono situazioni che possono succedere, non tutti possiamo essere brillanti e pimpanti, ci sono dei momenti che abbiamo meno voglia e siamo anche un po' stanchi, per cui ma non per questo non dobbiamo assentarci troppo, ecco, tutto lì già. Guarda, quando canti sembra così, però ti spompa. Quando canti, specialmente se fai canzoni alte, ti lascia stanco, proprio ti stanca a cantare. Beh, certo che sì che stanca, già lo credo che stanca. Soprattutto se tu non fai altro che cantare continuamente, soprattutto con canzoni alte, come stai dicendo, non fai altro che buttare aria fuori da dentro le tracce. Il discorso è quello, tutto quello che butti fuori poi ti manca, ti manca fin quando poi non ti riposi e ti riprendi, ma è normale, no? Questo è normalissimo. Vai Luca. Già già ce l'ha sempre avuta questa cosa, te la metti Giulio, tu già amavi, si drummia. Quello lì è un altro problema, può essere anche un problema fisico, può essere un po' tutto, no? Non è che dobbiamo guardare queste cose, assolutamente no, ci mancherebbe, però Gianni tutto sommato è stato sempre una persona disponibile, molto brillante, no? Non si può dire di no, poi ci sono momenti che si abbiocca un pochino e un altro discorso, può succedere a chiunque, questo è dovuto alla stanchezza e possono essere anche altri motivi fisici eccetera, possono essere avanti Gianni. E lo fa anche il diabete, Luca già lo sa, lo fa anche il diabete a stancarti e a volte non fai niente ti senti stanco lo stesso, lo fa anche il diabete. Gianni Sassone! Appunto, l'ho detto anch'io, io non ho voluto specificare, ma l'ho detto, potrebbe essere un problema fisico, te l'ho detto, non so se mi hai ascoltato bene. il discorso è quello, ma non per questo non si può dire che tu non sia mai stato brillante. Io lo ammetto, te lo dico, lo dico a te che ci sei davanti, ma lo direi a chiunque, anche se tu non ci fossi qui adesso in questo canale, che sei stato sempre abbastanza brillante, anzi uno dei pochi che è sempre attivo. Tanto per dire che sono io, senza nessuna critica, tipo sei lo Speedy Gonzales del microfono, dai, ecco, senza nessuna critica, perché sei stato sempre uno che hai premuto sempre prima degli altri, o quasi. Sì, poi lascio il microfono a tanto altro, Successo. Avanti, c'è successo. Tonino, tu sì. Caramba, buonasera a Tortoso, e allora Gianni. Ciao Tony, e allora? Sempre questa voce monitorale. Non ti piazzi. Ciao Giulio. Niente, ho già una notizia, oggi mi hanno telefonato l'agenzia, quindi fine settimana c'ho ischi che mi stavo pagando già per quella caduta. L'agenzia quale? Quella che per l'incidente? No, per la caduta Danit. Ah? Vabbè, ci vuole, ci vuole. Solo 2,8 mi stavo dando, vabbè, pazienza, dai. Già vanno bene, meglio di un pugno occhio. E allora Giulio, siete sempre pimpante, sì. Ciao Tony, e mi siamo un paio d'ore qua, abbiamo iniziato con Luca a chiacchierare e stiamo dicendo le nostre impressioni così del momento che ci vengono in mente. Tutto lì, mi ha fatto piacere che sei entrato in frequenza, così continuiamo a scambiarci quattro parole, perché ci stavamo lamentando che non c'è più nessuno. Il discorso era basato principalmente su questo particolare, Tony. Ma io sinceramente ho detto, accendo per sfizio, ma sono sicuro che non c'è nessuno. Farò una spazzolata, poi spiego tutto, mi guardo avanti un altro canale 5. Ma però male mio, sono da te a Gianni, quindi, davvero. Tony, cioè, il microfono è un po' troppo alto, io già, cioè Tony, ti sento un po' amplificato, quasi sdoppiato di radio. Spero Gianni. Io non lo dico più, se offende, ce ne lo dico, mi dice che c'è la Ferrari, lui deve usarla come Ferrari, non come 500. Se no se deve chiarire, l'ho abbassato, dai, c'ho una fretta, va bene? Sì, già va bene, già ti capisco lo stesso, però non è quella modulazione bella, brillante, chiara che ci ho sentito tantissime volte. Non so se ci ha dovuto al microfono o perché è troppo alto, questo non lo so io, Tony. Comunque mi va bene lo stesso, modula come ti piace, non c'è problema. Riprendi. Guarda, l'ho passato, l'ho messo proprio a 5. Dovrebbe andare bene così, dai, sono distante un 50 centimetri circa. Il calore andava bene col gas, si sposava bene con il gas. Fra poco si sposa di nuovo, non preoccuparti. No, era per riportarlo qua. No, di che ti fa male, già ti fa la bua. Poi dagli due microfoni fermi e amplificati. Non ho bisogno, no. Tanto vanno bene quelli che ho, sono tranquilli. Ma questo è un signor Sciure, te lo sai. Perché per cantare non Sciure è micidiale. Io l'ho regalato dallo Sciure. Cosa c'è che ci può caire? Ma non lo so, io avevo anche da spandere 500 e l'ho regalato a Simone di Roma. Adesso ti faccio un bel regalo, glielo spirito contento, mi ha mandato una cassa di vinica, che io poi vino, non i micum. vabbè, dai, è stato riconoscente. Scappa, vino di Trascatti, vabbè. E beh, allora Giulio, tu, io e Gianni, non c'è tra nessuno. Cosa hai detto Tony, non ho capito. Tu, io e Gianni, non c'è altro nessuno. C'è Luca Flipper, avevo detto un po' calcio, non so, forse non mi avete ascoltato, forse ho parlato mentre parlavo Gianni, o tu o perlomeno insieme. Luca Flipper. Giù, proseguite, dai, ci sentiamo domani mattina, giù, ciao ciao. Bravo, adesso mi fa un po' che devo fare terapia, per cui non è che mi posso trattenere molto. Comunque 2 ore ce l'abbiamo fatta, Luca. Stasera 2 ore di radio ce l'abbiamo fatta, perché erano le 5, sono già le 7 e 8 minuti, per cui fra alcuni minuti devo fare terapia, sicché dovrò per forza mollare, anche perché intanto mi chiamerà. figlia. Figlia, dai. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo, dai. Domani mattina voglio vedere, se esco in macchina acceso, vuoi vedere se vai niente, come avete detto. Beh, speriamo che convenga gli orari. Di solito c'è anche Natalino la mattina, per cui non vedo perché non ci dovremmo sentire. Va bene, vai Tony. La mattina è difficile che accendo perché sto facendo un po' di lavoretti e mi viene male. Esco presto la mattina io. Hai ripreso a lavorare? Ehi, lavora contro mio già, l'elettrico. Ehi, già mi piace, dai. Poi quando cassi poi i soldini in più, va bene. Ma da tua sorella sta lavorando? No, a quanto pare no, rimane così lì con il piatto mia sorella. E guarda signora, c'ho un preventivo in mezzo, gliel'ho già mandato, non mi ha ancora risposto. Un appartamentino da fare tutto dal capo, tracce, tubo, tutto nuovo. Bisogna vedere. Infatti ho contattato anche una persona, ha detto non ti do parola sicura, se vieni quanto vorresti al giorno, siamo messi ancora così, adesso vediamo. Quando mi danno la risposta, ok, l'avviso. Ah, per fare le tracce con la muratura, sai c'è? Perché c'è un impianto tutto esterno in questa casa vecchia. Ah, ho capito, lì devi mettere i fili dentro, c'è ancora quelle piattine ancora. Degli anni Prussia, negli anni 50, per carità. Forse anche negli anni 40, perché addirittura nel senso solante non si usava. Allora c'aveva una specie di garza. L'hai riconosciuta tu, quella specie di garza, come era Topa Clifini o Giulio? Sì, certo che l'ho conosciuta. Io ho conosciuto addirittura Tubo Bergman, ti puoi immaginare, quello da Merino col cartone dentro, del catramato per isolare. Le curve si facevano con una pinza, non lo so se quella tu l'hai conosciuta. Poi siamo passati alla plastica, alla cosa, della caldarella, un focherello e facevi le curve a mano. Non è come oggi trovi tutto, qualsiasi cosa che ti occorre ce l'hai a portata di mano perché puoi comprarlo. Prima no, prima era tutto lineare, tutto sui muri prima, e oggi invece la maggior parte del piatto passa nei pavimenti, Tony. Poi c'è una scarsa arrivazione in macchinette, me la metto ancora, barca di dai. La tabacchiera, la vago la tabacchiera, il contattore. E poi i fusibili in ogni scatola di derivazione, all'interno c'era sempre il fusibile, saltava un corticircuito e dovevi intervenire quel fusibile perché tanto era quello che ti saltava, perché non c'erano altre protezioni. Invece oggi ci sono tutti gli utilizzatori inimmaginabili, salvavita di ogni genere, per cui non c'è problema, salta, vai, attacchi di nuovo e stai andando. Prima invece scala la mano, ti appendevi, apri la scatola di derivazione per cambiare il fusibile nella scatola di derivazione, Tony. No, io ricordo invece che dal contatore più uscivano i fili della tensione fase neutro e c'era quella scatoletta in ceramica che praticamente toglievi il tappo, mettevano due fili elettrici in parallelo, poi li rimettevi dentro, si dava tensione, quando partivano poi lì toglievi e rimettevi di nuovo, fai che dai. Appunto, quello che ti ho detto, la valvola tabacchiera, quella lì era la valvola tabacchiera, no? Che si chiamava così, valvola tabacchiera, che c'era i due fili con quattro vetine, due per ogni parte, e dunque si bruciava il fusibile, mollavi la vetina, mettevi un altro tiro di filo, mettevi e ripristinavi l'impianto. Certo che sì, se poi era troppo esagerato saltava addirittura il fusibile esterno, allora bisognava chiamare l'Enel, bisognava chiamare per ripristinare la scatola esterna. Doni. Vabbè, no, adesso è tutto diverso, dai. Adesso ci ricordiamo. Io ho fatto anche, diciamo, dei corsi di aggiornamento, perché la roba elettrica, guarda, c'è sempre da imparare. Non c'è un elettricista di sciopare tutto, no. C'è sempre novità, perché ce n'è tanta. E sappiamo pure che io tempo fa, non lo sapevo, ho un tubo di piatto elettrico, mi metto un tubo da 20-25 e fa entrare 6 cavi che sono due linee separate, da 1,5, 3 da 2,5. Deve rimanere l'aria dentro, non devono essere soffocati, appressati uno con l'altro, perché si potrebbero riscaldare, anche se usi cavi ignifugi, capito? Quindi automaticamente. praticamente. E sono tante cose che uno deve sapere, capito? Perché molti che si dicono sono un elettricista, e uno dice elettricista, che se mi hai messo addirittura il piede, che sarebbe il giallo verde alla terra, me l'hai messo come una fase oppure un neutro, ma sempre al centro che è la terra, quella per dispersione, per carità. Avanti Gianni. E io quei contatori li ho conosciuti. Mamma ce l'aveva, addirittura hanno fatto il buco dentro casa, che c'era il muro intracchito, hanno dovuto cavare lo scalpellino per fare il buco, perché il muratore non ce l'ha fatta, ci faceva la parte della punta delle, del coso, delle, come si chiama, lo scalpello, si faceva come la parte dove battevi, si schiacciava, non ce la faceva. Allora ha dovuto venire col cango, il proprio quello che spacca il granito. Altri tempi erano Gianni. Adesso è tutto diverso. Quindi i contatori le muoiono tutti nei portoni, oppure una nicchia. E vabbè, è tutto cambiato. Ma in video dà per la sicurezza, giustamente. Prima molta gente moriva pure fulminata, e invece adesso, come se avete differenziato praticamente. Quindi se uno si fa il bagno come molte donne e molti uomini usano, con la sua capelli vicino attaccata, le fare la vasca a maglia, quindi un po' di cose e tutto scatta, se la vita ti salve. Prima non era così, prima praticamente moriva fulminata, vero giù. Io a mia sorella ce l'ho fatta staccare dall'asciugacapelli con un bastone, perché sennò ce l'avrei morta fulminata. Certo, così. Sì, certo, prima non era come oggi, oggi è tutto quanto ben sezionato, come si deve, doppia linea, addirittura terza linea anche, perché prima la linea per le prese, linea per la luce, linea per il telefono, linea per l'antenna, oggi è tutto, tutto separato, prima invece era un minestrone, magari mettevi un tubo rosso e facevi passare tutto dentro lì, facevi, era un minestrone proprio. Poi oggi ci sono anche molti strumenti di misurazione, prima invece non ce n'era, l'unica cosa che esisteva prima quella sera, un prova circuiti e basta, ma un prova circuiti autocostruito così, una lampadina che si attendia quando mi facevi qualche riparazione per vedere se c'era qualche contatto a massa in qualche lavatrice o in qualche scaldabagno o che so io, o qualche stufa di allora, ma oggi come oggi è tutto un altro discorso, no? Oggi ci sono tutti i tipi di utilizzatori inimmaginabili e puoi fare l'impianto come ti pare ti piace, sezionato, zona per zona, interruttori salvavita per la lavatrice, interruttori salvavita per tutto l'impianto completo, tutte queste cose ci sono, ma prima non c'erano tutte queste cose, me ero un cordoncino, ti ricordi, c'era la storia di porcellana, mettevi il chiodo, c'era il cordoncino, aprivi appena il cordoncino e attaccavi il filo, attaccavi così esternamente, tu quello non l'hai conosciuto, no, Tony? Ma quello non me lo ricordo, ma il fattore che mi hai detto ha un file incanto, insomma vita per la matrice, no, quello è uno spreco, perché basta un termico per la della matrice. Con termico fai tutto, perché deriva sempre dalla salita differenziale. Quando c'è l'ultimo salita differenziale, ultimi conduttori praticamente non puoi mai sbagliare, capito? Poi se uno vuole spendere qualcosa di soldi in più, anziché farti la linea 2,5 te la fai da 4, capito? Quindi non c'è problema. E vabbè, sono tanti fattori che la cosa è cambiata, siamo andati in progresso, però dirò una cosa, lasciamo perdere il fatto elettrico e l'idraulica che è cambiata lo stesso Emilio, tutto quello che vuoi, però come caro vita diciamo, come stavamo prima male, stavamo meglio che adesso, perché adesso siamo più in progresso, più abbiamo tutto e siamo male, perché siamo male, non stiamo vivendo bene. Sì, ma quello sai perché Tony? Perché effettivamente prima c'erano meno esigenze, avevamo meno conoscenze, avevamo, per cui non avevamo molte pretese, ma era così, ma non è solamente nel pianto elettrico, ma su tutto, anche sul vestiario, sul mangiare, su tutto. Prima avevamo altre abitudini, perché si sa, io soprattutto che sono nato quasi, in periodo di guerra, anche se poi ero piccolissimo per dire, però le abitudini per tanti anni dopo la guerra era quello, il tenore di vita, la vita che si conduceva in quella maniera, magari ho chiesto io più grande di casa col pantalone che poi ero cresciuto, lo passavo a mio fratello che era più piccolo di me, perché a lui gli stava meno più, erano tutte queste cose. Oggi invece cosa è successo? Passa un piccolo pivettino da niente che puoi anche recuperare, il biglietto lo lampi, o perlomeno non mi piace più, non è più di moda, e te lo lampi, lo butti via, e ci sono altre possibilità oggi, altre soddisfazioni sicuramente della vita, ma non sarà finita lì, perché man mano che passa va avanti la vita ci saranno sempre più sprechi e più consumi a livello di preferenze, eccetera. Questa intelligenza artificiale, ma non ho capito che più fanno questo e più ci sarà disoccupazione, ancora non ho capito, mettetelo molto, mettete quello che volete, su questa nuova tecnologia è fluida automaticamente, no, capito, l'operaio c'è che operaio, e la moto le lasciamo una parte, non ce ne frega niente, perché potrebbe anche sbagliare, invece l'uomo è diverso, sì, può sbagliare anche l'uomo, però le mani dove mette l'uomo è l'uomo, non c'è nulla da fare. Poi noi ricordando, diciamo, tempo addietro, negli anni che furono 60, diciamo, io mi ricordo ormai quando facevo un minestrone, ero giù, era un signor minestrone, no, adesso che tornata roba fatta, anche di brici, la carità, no? Si viveva meglio, sì, meno pretese, non c'era un telefonino, si giocava con la ruota, con la mascella, ti vogliono uscire nella mano, però noi ci divertevamo, non era come adesso. Adesso c'è più malizia, più delinquenza, c'è più tutto. E quindi non è vivere come la bomba, assolutamente. Già, ne ripeti. I cerchioni con fil di ferro, sennò a sacro cuore quella chiesa elementare che c'è, visto i gradini che ci sono lì, quando ero piccolo mettevamo un foglio di compensato e l'altro spingeva, anche se facevamo tutta la discesa dei gradini, oppure con monopattino, con i cuscinetti, facevamo le gare da dove c'è un po' più su della scuola, sino arrivare al tabacchino, quasi arrivati via Luigi Care, ma lì facevamo le gare con monopattini, passavano i vigili urbani, ce lo mettevamo sotto il braccio e via a scappare. Tre cuscinetti, due dietro e una centrale davanti, col bullone, rubio. Ma c'era anche meno macchine però, Gianni, vai a farla va, a fare una via, come cade la roba. I cazzi che già nessuno mi sembra cade, dai, no, si era bello, dai, tutta un'altra cosa. E sì, con il cerchione della bicicletta, un ferro fatto a lui, lo quasi che mi ha, ci divertevamo, una cazzata. Altri tempi, avanti giù. Ok, beh certo, già tu usavi il cartone per scendere nelle scale, così, la scivolo. Io usavo la bicicletta per scendere nelle scale, soprattutto nelle scale del ferroviario, della stazione, lì scendevo con la bicicletta nelle scale, ti puoi immaginare col rischio di cadere, di farti male veramente. E qualcuno ci provava anche nelle scale di provincia, anche se lì c'era sempre il poliziotto che era abbastanza attento, perché allora era fuori il poliziotto come piantone, e quando si vedeva qualche ragazzo con la bicicletta lo mandava via. Se no lì tante volte andavamo lì per fare la scalinata con la bicicletta, già era cose dell'altro mondo, cose pericolose tra l'altro, ma erano quelli i giochi di allora, non è come oggi è tutto diverso, la gente oggi tu ne vedi i ragazzi per strada giocando, non ce ne sono più, prima c'erano decine e decine di bambini in ogni zona che giocavano per strada perché era tranquilla la situazione, oggi invece non lo puoi più fare o già. E a pallone ci avevamo il campetto dove c'era il bucciuffio che hanno fatto quel muretto, prima non c'era quel muretto, lì era il campetto nostro che giocavamo a pallone. La mia squadra si chiamava Ranger come squadra, giocavamo a pallone e ci divertivamo molto. Prima ci accontentavamo, qui ci avevamo inventivo e inventavamo i giochi, capito? E quando non sapevi cosa fare, mi fai di rasico e andavi a tirighette. Sì, prima col pallone ci divertivamo molto, adesso mi è fatto venire in mente una storia col pallone, che la città mi aveva appena comprato un paio di scarpe da tenere, mamma di lì, dato me, 999, me li sono messi e sono uscito da casa, sono uscito, sai, quelle scarpe da tenere quelli azzurri di una volta, sai, che erano di tela praticamente. Esco da casa e non ti vedo un pallone arrivare, come arrivate nella strada dove abitavo. Io ho visto questo pallone, prendo da un calcione al pallone e mi si aperta la scarpa al primo calcio che ho dato. Era di tela, era, capito già, si può immaginare. Appena messi me li avevo, ero appena uscito da casa e ho facciato, e ho rotto subito le scarpe. Erano scarpe di cupadra, dove ho avuta, per carità. Vabbè, le condizioni erano quelle, le possibilità allora erano anche quelle, per cui non è che poteva avere grandi cose. Ma ti accontentavi, capito? Perché non conoscevi niente, perché non avevi niente, non hai avuto niente più di prima, e per cui quello che conoscevi ci andava bene. Vai, Tony. Io chi di voi è andato a Viale quando era piccolino a mangiare la nocciolina americana? Sì, ma che tutto, anche come si chiama? Cagarazzo, nocciolina americana, tuba manzuru. Agrodolce, ma dietro è l'agrodolce che le fiorenze è giallo. Io sì, io l'ho mangiato. E quando giocavo a pallone lo mangiavo perché li settava. Il pandoro, canti gossi. E poi mi dice, potevamo dire una pensieria. Ma non so più voci di mezzini. Oh, la che mi pizzia, avanti più. La brunicella. Andavamo a Brunicella, io andavo a pigliare a Brunicella, in Greffa, dalle parti di via Baldetta in fondo, dopo Gravincella, dove c'era Gravincella, c'era, e dopo il passaggio a livello, lì da quelle parti andavamo a raccogliere, e non solo quello, oppure alla strada Vini, lì di fronte allo stadio dei Pini di adesso praticamente, c'era il camion che arrivava con l'uva quando il periodo della vendemmia, aprivi il dendone, prendevi certi grappoli d'uva, mangiare tutti i bambini di 10 anni, 8 anni, 10 anni, e cosa facevi? Eri piccolino, lo capivo, accidenti, per cui di queste cose si facevano. Tony. Noi andavamo alla fabbrica dei mattoni che c'era via Pascoli, andavamo a chiedere la creta per farci le barchette, facevamo le formine, no? E poi quando si seccava la pitturavamo. E ci davano i mattoni morbidi ancora, intendi ancora che non l'hanno messo nel forno, ce li davano gli operai, cioè via, andatevene, però ci davano due mattoni e ce la davano tutti contenti. L'argilla, se non vado errato, la fabbrica mattoni, Gianni, non è dove c'è il commercio adesso? La riva faceva anche angolo, scendeva. Prendeva tutto quel caseggiato, prendeva tutta quanta la zona, faceva angolo, e dove c'era l'angolo tutto c'era la fornace, dove scendeva anche l'argilla, no? Dove scaricava l'argilla c'era proprio la tramoggia. Mi ricordo che una parte della campagna non era venuta a sinistra, invece c'era il cinema Rex scendendo. Sì. C'erano le colonne verdi, me lo ricordo ancora, ci sono anche, c'erano delle colonne verdi di marmo verde. E c'era anche la maschera, tu hai già la maschera, la bimbi. Una maschera CB, si chiamava pellicola di illuminativo. L'accordo era quello dei mattoni, l'accordo. Dice, beh, io che andiamo all'accordo, andiamo. Ma di queste cose già le abbiamo conosciute, grazie a lui. Ricordate quando c'era Busonera, forse Tonino l'ha conosciuto, Busonera giù al corso che vendeva il carburo, vendeva, e c'era sempre il sacco del carburo davanti alla porta, no? Perché allora si usava per la luce, c'era la candela, la centilena a carburo per le luci, perché non tutti avevano la luce elettrica a casa, e tanti pezzi di carburo cadevano per terra fuori dal sacco. Noi andavamo bambini piccolini a raccogliere un buco per terra nella strada, una lata di coso, di conserve o cosa era, e facevamo una centinaia con il rischio, qualcuno magari ci ha aperto anche qualche sopracciglio con quel tipo di sistema lì, prendiamo una centinaia, prendiamo un carburo raccolto dalla strada di Busonera. Vai, Tony. Busonera, c'è una cosa, era veramente, praticamente, sia che noi con carburo andiamo alla scuola di San Donato, buco per terra, la pipì dentro, il barattolo sopra e passi a razzo tutte le dente. E i nostri giochi erano qui. quindi delle bottiglie schiacciate, facevamo Giro d'Italia, oppure le figurine, sai, al varavara, come si diceva, oppure a giocare a bacchetta d'andata, a bacchetta Primo Monte, tutte queste cose qua, erano tutti i giochi di allora, ma oggi i bambini di oggi non li conoscono, quei giochi non li hanno mai conosciuti e non li potranno mai fare, per cui è così, fai già. La Marrucci, una marrucola. Oggi, bambini oggi, tu vedi bambini oggi 3 anni con telefonino in mano e i genitori sono diventati macchi, meglio che sia 3-4 anni, c'è un telefonino, e sono più bravi di noi, la matta gliene in varia, le vedi come le giostrano, e purtroppo adesso siamo in andati in progresso, non è più come prima, prima ci divertivamo con poca roba, adesso pretendono, hai capito? Sono più viziosi, il benessere ha fatto male a molte persone. Sì, anche le madri non disdicono al telefono, io a volte dopo che mi faccio la camminata al contrario mi fermo 5 minuti nel muretto, mi siedo e tanto si siede con me, non passano le macchine, tutte le donne cazzo col telefono in mano guidate. Sì già, ma io vedo da che mi riporti che vanno più piccoli e vanno a io che pronto a pranzo il telefonino, vanno in mano il telefonino, sicuro che il telefonino esce il telefonino, sempre il telefono in mano, e fine mira la pagina una parte, oh, e anche troppo quando è così, dai, poi si mettono i coglioniti questi bambini. Perché poi si isolano, capito, la vita normale non la conoscono, la vita reale non la conoscono. Stanno sui social e praticamente fanno tutto, li giocano, parlano, fanno, quindi che cavolo conosco della vita? Nulla. Per me sono malati di questo telefonino, è una cosa assurda, ma le vedi tante, si gira, come hai detto tu al telefono in macchina, attraversando la strada col telefonino, dai, vieni. Sui per sempre domani, che io mi ricordo che la prima punta che l'ho messa a Sassari, ed è bensì la figlia di Aquila 21, mio ex cognato, penso un po', per dite, no? È un telefonino, sui per sempre domani, per lui ce l'ha fatto una punta, che è entrata in vigore la legge il giorno prima, e l'hanno impiccicata, la prima punta a Sassari, in tutta Italia, per carità, non sono scappati. Poi un'altra cosa che non sopporto oggi, che anche oggi ne ho visto tante persone, la Budi in bicicletta, non è che vanno a fine Indiana, c'è tanto di pista ciclabile che hanno speso soldi, niente, ne messo la strada. Se invece i vicini o l'assessore della polizia municipale mandava un po' qualche pattuglia alla Budi e ogni bicicletta che era fuori dalla pista gli metteva un po' di multa a 400-500 euro, vedrai che camminava tutti dritto, invece no, ma a finire che il multa ne ammazzano anche uno e fatene bene. Purtroppo oggi è così, la Cina è bella, mi ricordo, e vabbè, ma era diverso il discorso, c'erano anche più centri sociali, andavamo a spedire in parrucchia, c'era il biliardino, giocavi al biliardino, mi ricordo, lì a Sacro Cuore, oppure quando abitavo a Santa Revica, Santa Pollinare, in quella zona, si giocava così al biliardino, perché c'era sempre una specie di centro sociale, e tutte queste cose esistevano, oggi non ci sono più, però c'è da dire anche questo, oggi i ragazzi, anche volendo giocare per strada, non potrebbero giocare perché ci sono troppe macchine, troppo traffico e diventa molto pericoloso. Prima no, c'erano le carrozze, le zumbarelli e dunque non c'era questo pericolo, potevi giocare tranquillamente per strada, non c'è problema. Va bene signori, dai, è stato bello chiacchierare ancora, io sarei voluto rimanere, però mi hanno già anche chiamato laggiù per fare la terapia, dai, sono già in ritardo di almeno 10 minuti. Sentiamo, ciao Tony, facci sentire Tony, magari ci facciamo ancora una chiacchierata se coincide, grazie ancora per la chiacchierata, ciao Tony, ciao Gianni, grazie anche a te per la chiacchierata, ci sentiamo, dai, ascolta il finalino e dopodiché devo scendere di corsa per fare terapia, vai Tony. Ciao Giulio, allora, buona terapia, buon correttivo, buon carica quando lo fai, sono 3-4 anni, avanti già. Ciao Giulio, ciao, grazie per il questo e buon tuo proseguimento, dai, ci sentiamo. Tony, ti volevo chiedere, si è fatto mai questo gioco, Mighi mini gioco vinendi? Mighi mini gioco vinendi, aspetta. È un affare che quelli che si fregavano, si appoggiavano a muro, c'era la fila e chi dobricava. Esatto. La coppia già, su culo. E poi si continua a farmi da culo. Che cosa lo schiaffo, che tu li accavalando? Questi giorni! Per carità, lì quanti giochi quella francese, altre cose. Ho detto ci accontentavamo di poca roba già. Oggi la gente è più viziosa, ma io me ne accorgo anche dei bambini piccolini in fumare. I genitori viziano, telefonini, quello, ma no, non voglio più grosso, non voglio più così, non voglio colà, Qualche uno aveva comprato quelle macchine di plastica, no, assolutamente, più niente. A fare di birra pigliava, io voglio il telefonino, ecco preso. Sì. No, con me non avevi arrivato, è perché sono viziosi adesso e vogliono tutto, poi addirittura si scelgono le marche, vogliono quel tipo di telefono, non è che si accontentano, sono quelli cari, quelli l'Apple, quelli che costano un po' di soldi. Guarda, io ho assistito quando c'era ancora Città Mercato, questa donna con il figlio piccolino, a tutti i costi piangendo, non so cosa doveva comprarti. E lì ha assistito e ha detto no. E quando l'ha detto boh, ogni parolaccia ci è rimasta di merda, se n'è andata via, ma io ho capito, il bambino non ha colpa. E non ti pure ha dato, ma c'è fuori, l'ha dato, ma non è colpa. Vuol dire che voi parlate in casa così, il bambino copia, capito? Perché il bambino avrà avuto 6-7 anni, non di più. E quindi è stata lì la maleducata che ha picchiato il figlio, perché la colpa è sua, deve essere che in casa sua usano questo gergo a parlare parolacce davanti al bambino. E questo non si fa. Quindi, Tu li altri a scuola imparano, dipende, magari a casa non li sentono, li sentono a scuola gli altri ragazzi che dicono le parolacce li imparano lì. Se fuori pistola. Ma ce l'abbiamo mai sognato noi di portare la pistola della compressa a sparare detta professoressa? Ah, io ora mangio le cure, ma è un po' a che punto siamo arrivati? Volevamo parlare del padre che è stato chiamato perché la bambina non so che cosa faceva e ha picchiato al direttore. Sì, ho sentito già, magari dai, oggi a fare il professore, hai avuto la bicicletta a pedala, ho pennati. No, è perché c'è maleducazione da parte dei genitori, che cosa perché fare un bambino se vede il genitore che picchia il direttore, aiutare, lasciamo perdere che c'è anche poca educazione da parte dei genitori molte volte. Io lo so anche da un'amica mia che insegnava a costruttore, che questo qui, questo alunno gli ha detto una parolaccia, ha chiamato il genitore e gli ha detto, se gliel'ha detto vuol dire che è vero. Guarda, io ho assistito quando lavoravo nelle scuole, ho già a ripiare il professore di sua morte. Questo ragazzo, la bidina, ha detto, ma lo fai un capito, ha detto, ma non te ne fai la vergogna. Che potrebbe essere tornato. Vedi qua già un uomo, ha detto ascolta, io non so come con la bocca delle gambe dentro, l'ho compreso. Ha pigliato un punto e se n'è andato nell'aula. Guarda i match, quanto sono caffoni. No, oh, guarda già, per carità. Poi perché il genitore no, mia figlia è bravo. Non è vero, è impossibile, capito? Dai, non è torto la maestra, o professore, oppure, insomma, la ragione è un figlio. Sì, ma Tony, se venivano chiamati i genitori perché il figlio non si era comportato bene, la maestra gli diceva la cosa davanti al genitore, il genitore si girava e poi dia un ciappo, davanti alla maestra, davanti agli altri alunni. Lo so, io conosco alcuni ragazzi che erano con me a scuola elementare, gli ha ciappo, te, pica, o veniva un babbo, lui ha preso il culo, capito? Era diverso già, dai, adesso no, non c'è più quella religione, adesso è tutto cambiato, adesso i figli sono sataniti. Io mi ricordo la mia maestra usava anche la bacchetta, quella che usava per segnare nella lavagna la cosa quando te la spiegava, no? Quella di legno. Praticamente c'era questo nostro compagno di scuola, l'aveva preso di mira, era un po' cicciottetto. Mi ricordo nome e cognome, pensa che questo è all'elementare, mi ricordo nome e cognome ancora, mi è rimasto impresso. Lo chiamava per nome, Giuseppe, ne fatti i compiti. Si sono mai, mio padre mi ha dovuto portare perché dovevo andare a prendere mia madre al lavoro e non ho potuto fare. Giuseppe, Giuseppe mette le mani sopra al banco, cazzo, poi un gruppo di bacchetta, quello guarda l'ho conosciuto io. Guarda, questo sistema qua c'è nelle scuole giustamente elementari, mi ricordo che il maestro San Severino aveva una bacchetta, dammi la mano ogni agoepo, era diverso allora quei tempi, e mi ricorda questo Mario Murcia, che quando a Pacera casinista è, dammi la mano, allora gli ha detto, dammi la mano, come ha dato la mano, va a tirare col bacchetta, li piglia la bacchetta, gliela spezza su un ginocchio, sta, a me non mi picchi più. Allucinato, era abilato dubbio ragazzi, allora lo chiamava patattone, alla Giuseppe sei un patattone, lo disprezzava proprio, l'aveva preso in unghie, io non lo so perché poveraccio, era bravo. Vabbè, no, io ho assistito sulle commerciali, quando ho fatto, sentivo questo professore a scuole, stavo lavorando io lì, un casino nella classe, a voci si apre la porta, piglia questo professore bambino, gli dà uno spintone, lo butta fuori dall'aula e cade, e sbatte la porta, pura porta fortissima, ho bussato la porta, mi ha aperto, si mi dica, non si permetta più, per due motivi, uno, il ragazzo deve chiamare il padre, deve mettere, lo devo sputare, non lì perché lì è un professore e non deve neanche toccare il ragazzo, e due, la porta non la sbatti perché non è la sua, se non mi paga, sì, la pago io, ma se no per mamma che lì da vai, e quando il professoressa che è uscita ha fatto, poveraccio, gliene può passare tutti i colori, ha avuto la bicicletta, deve pedalare, basta, lo deve, prendersi quei ragazzi, se non li va bene, serve a casa sua, o si ricovereggia. Deve essere, l'ho preso di mira, i ragazzi sono così, se vedono che il professore è entrato in una certa maniera, lo bidare di mira e ti vado di pitti. Io mi ricordo che la maestra ti aveva sgonfiato le gomme, lui. Ma tutte e quattro già. Tutte e quattro, quando è uscita pure. Quando è uscita pure c'era un'altra classe, noi avevamo finito, avevamo un'altra classe, lui è andato dentro in quest'altra classe a fare sostituzione, mi pare, di una maestra che mancava. E praticamente noi siamo usciti fuori, siamo andati tutti e quattro, avevamo sgonfiato tutte e quattro le gomme, e quando è uscita a casa l'aveva fatta abitare la macchina che ha tutte le gomme sgonfiate. Sì, prima era un po' anche da maestro, era un po' cattivelle, capito? Severe proprio. Vabbè. Tempi che furono, già si stava meglio comunque. Beh, oh, 8 meno 4 da io. Ho fatto una bella cecciata, oh, già. Ma così buona, guarda. E quindi l'ho fatta del giorno, adesso me la mangio stasera, pure, che ne va tanto. Me lo scaldo un pochettino. Ma tiro dopo buono, che ci ho messo anche pezzi di carne di maiale e cavafoglia, un buon po' sono uscite cipolle, le cipolle sono sciolte addirittura. Ok, dai, ci sentiamo già, stammi bene, grazie per le questioni, alle prossime, ci sentiamo, ciao, stammi bene, ciao ciao. Ciao ciao a tutti, un po' pesantina la sera, occhio. Vabbè, ci sentiamo, buona serata e grazie per questo, ciao ciao. Pesantino no, io ma macino tutto poi questi fa. Questi cicci, me ne ero dimenticato, l'ho lasciato un giorno e mezzo a bagno, muti muti so. Ok, ciao ciao. Meglio, quando sono muri è meglio. A me piace più con le fave, se ce l'ha. Ce l'ho fatto anche con la fava già, ma quei cicci mangio tutto. La fava di buccia nera, che la buccia è sempre grossa, oh, i cicci mangio tutto, è un'altra cosa. Vai, vai.